scelta? Perché son morto? Perché tu sì sdegnosa? E voi, bell'alme, perché confuse? Tu vuol dirlo? Esponi! Non ma stringerti, prego, a ridir ciò che vedi! Corrado il dica! Tu se parli o se taci, ognor m'offendi! Signore, breve accendi, tu lo intendi! Non v'è più spene! O sorte, Roberto, è la tua scusa in questo loco or. Favellando d'amor, accendi mora. E perciò di l'accesa, forse che la tua offesa dell'onor tu l'accesi in sé lo sdegno. Ben si vede che nata sei fra boschi o donna, e che ti trassi di là perché tu vegli sugli affari reali. E ti rammenta ch'altra è la regia sposa e tu sei serva. Obbliaco al fosti e le sue leggi osserva. Quel zego io non te il chiedo, il rispetto lo devi alla real consorte. L'onor tu chi tenesse del talamo custode che ti calse costanza abbia più di un amante che divida il suo cor cambia sua voglia o Roberto o Gualtier. Per un tormento deve questo a te dar, sì, io son contento. Udisti? Udì. Che sento? Ti sovvenga il suo grado. E di regina? Il tuo uffizio? E di ancella? E se talor per altri arder la miri? Cieca avrò le pupille. Se sospirar la senti? Sordo l'udito. E se fia che a Roberto anco sugli occhi tuoi scopra talor dell'amor suo le faci, non trasgredir le leggi e servi e taci. Lumi, qual legge è questa? A qual tormento condannata son io? Chi vide mai d'onor